Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi ci concentriamo su un numero, il 730, che in questo caso può essere un numero che ha un valore, 730 euro, ma anche a molti ricorda il fatto che c'è la dichiarazione dei redditi. Allora entriamo prima nel 730 euro, perché c'è una storia da raccontare. Sì. Effettivamente partiamo proprio dai soldi, e anche il modello 730 riguarda soldi, ma in questo caso è una storia un po' particolare, una storia che è capitata appunto a un cittadino rumeno che si è rivolto poi alla nostra associazione. Lui risiede in provincia di Venezia e anche in questo caso ci troviamo di fronte a una situazione legata a un tormentone di questo periodo, che sono le famose telefonate che arrivano a casa e che ti fanno stipulare contratti che non desideri. In ogni caso, questa storia è ancora un po' più particolare. Sì. Questa persona che si è rivolta a noi ci ha semplicemente detto: guardate, io mi sono ritrovato da un giorno all'altro senza 730 euro, i famosi 730 euro dal mio conto corrente. E praticamente ha cominciato a fare un'indagine per capire chi gliele avesse presi questi soldi, e niente, chiaramente dopo aver un po' indagato ha scoperto che quei soldi erano stati presi da una compagnia di assicurazioni, una grossa compagnia di assicurazioni tra l'altro, che opera, che ha sede a Zurigo e anche a Londra. Sì. Non faremo il nome comunque, insomma, ripetiamo, è una grossa compagnia di assicurazioni. E il problema è che questa persona, quando si è rivolta a noi, ci ha detto: io non so assolutamente di cosa si tratta, io non ho mai parlato con nessuna compagnia di assicurazione, non ho mai stipulato alcun contratto. Misteri. Abbiamo scritto tramite il nostro ufficio legale sia alla compagnia, sia a chi si occupa appunto di controllare le compagnie assicurative, e alla fine la risposta della compagnia è stata confortante da un certo punto di vista, perché ci è stato detto appunto che è stata ascoltata la registrazione tramite la quale si è appunto stipulato il contratto, ed effettivamente dalla registrazione si nota che la persona sembra non aver molto capito che stesse trattando di un contratto, quindi in realtà avrebbe stipulato un contratto non voluto, non desiderato. Certo. E a quel punto la compagnia, tramite appunto il nostro ufficio legale, ha comunicato che avrebbe restituito i soldi al cittadino. Ecco, posso chiederti una cosa? Ma sì. Come ha fatto a fargli un prelievo dal conto corrente se non ha i dati? E di solito... Ovviamente, Francesco, è questa la domanda che noi adesso poniamo alla compagnia e probabilmente anche al nostro socio. Per quale motivo? Perché oltre al fatto che non capiamo come possano aver avuto il codice PIN del nostro cliente, perché solo così possono avere prelevato appunto quei 730 euro, al nostro iscritto non risulta tra l'altro assolutamente di aver mai ricevuto una telefonata da questa compagnia. Rimaniamo un po' interdetti, siamo chiaramente soddisfatti del risultato ottenuto. Perché avete avuto indietro i soldi? Ha avuto assolutamente indietro tutti i soldi, con le scuse relative, eccetera. E resta però il mistero che al di là appunto di quello che è successo all'iscritto in questione, può far pensare che magari tante altre volte possano succedere queste cose, cioè che adesso qua stiamo parlando di una compagnia che evidentemente ha una certa nomea anche, sì. Noi non è che vogliamo andare a fare accuse, ci chiediamo però dove abbiano trovato questo codice PIN, anche perché oggettivamente, Francesco, dare un codice PIN è una cosa impegnativa, e sicuramente il nostro iscritto si sarebbe ricordato di aver fornito un numero così lungo a qualcuno. Sì, beh, quindi, strano. Ecco, diciamo che andremo sicuramente a indagare. Intanto la prima parte l'abbiamo risolta e siamo soddisfatti, pur rilevando che ancora una volta è stato stipulato un contratto che per stessa missione della compagnia era un contratto stipulato senza la volontà precisa del contraente. Certo. Poi, se contiamo poi che il contraente non si ricorda neanche di aver mai ricevuto una telefonata da questa compagnia, capiamo che ormai siamo nell'anarchia più assoluta. Sì, sì, abbiamo più volte parlato di questo, del fatto che sarebbe importante che si eliminassero si eliminasse la possibilità di fare contratti attraverso il telefono, ma ci fosse un foglio di carta scritto, firmato e controfirmato. Vabbè, infatti. Questa è la prima storia che vogliamo raccontare, che era di 730 euro prelevati così un po' a uffa, come si dice. Adesso però parliamo di 730 perché ci stiamo avvicinando a grandi passi a quello che è il periodo, ahimè, della dichiarazione dei redditi. Sì, infatti, ecco, in questo frangente abbiamo come associazione un quantitativo enorme di richieste, perché noi da anni, Francesco, proponiamo l'assistenza alla compilazione del modello 730. E diciamo che rileviamo questo appunto anche per il fatto che oggettivamente pensiamo evidentemente di aver lavorato bene, notiamo però che molte persone hanno perso un po' di fiducia nei CAF. E ora ricordiamo che i CAF comunque compilano migliaia e migliaia di modelli, quindi insomma l'errore ci può anche stare, però negli ultimi tempi anche tramite la nostra associazione insomma parecchie persone si sono lamentate di contestazioni da parte dell'Agenzia dell'Entrata in seguito ad errori del CAF. Ora noi ci proponiamo, al di là di questo ovviamente, ci proponiamo anche quest'anno insomma per assistere alla compilazione del modello, e comunque chi volesse capire anche come funziona intanto il nostro servizio e soprattutto quale documentazione presentare può come sempre visitare il nostro sito, dove c'è già scritto tutto. Comunque partiamo da aprile e andremo avanti per un paio di mesi con il servizio offerto a soci e non soci tutti i sabati. Benissimo, www.associazionedifesaconsumatori.it, il sito che vi apre il mondo dell'Adico, e quindi sfogliatelo. Io ti ringrazio, Gianluca. Grazie a te, Francesco, per averci raccontato queste notizie, e ti faccio gli auguri di una buona Pasqua a te e a tutta l'Adico. Altrettanto, e tutti i radioascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.